Oster resta in duel. Con chi me vicino la fete, tutti ne abbiam, ma ostento, ostento, comprendo. No. Messaggio non inviava don Alvaro l'indiano.